con la lotteria degli scontrini è un po' come se veniamo pagati per rispettare la legge. Buongiorno Simone, ma quanto è più facile chiudere tutto, proibire, proibire, chiudere tutto piuttosto che gestire? Simone, ma vogliono rendere obbligatorio l'anti-Covid, il vaccino anti-Covid? Ok, due cose. Primo, non sono riusciti neanche a farci avere quest'anno l'anti-influenzale. Al mio paese ne sono arrivati 10, paesi di 2600 anime, 10. Io lo faccio tutti gli anni, non sono riuscito a farlo. E poi, se rendono obbligatorio questo cavolo di vaccino, ok, mi sta bene, ma ce lo faranno pagare? Non credo che ce lo faranno pagare, in tutta sincerità, sì. Soprattutto se lo rendono obbligatorio. Il tema vaccino anti-influenzale è gran tema. Oggi c'è qualche pezzo di giornale che ci torna su questo punto. Sulla questione gestire, proibire, caro ascoltatore, cosa ti devo dire? Sì, è vero in linea di massima. Io non riesco ad avere una posizione netta, devo essere molto sincero, su tutta questa questione dei divieti e del bloccare tutto, perché se da una parte molti di noi hanno dimostrato grande capacità di rispetto delle regole, dall'altra parte alcuni di noi hanno dimostrato di non essere in grado di rispettarle. Allora il punto è cercare di non intasare gli ospedali, cercare di non creare una situazione di emergenza di nuovo. E dunque capisco che chi si trova al governo, ma questo non è una giustificazione del governo, non vuole essere un sostegno a questo tipo di politica necessariamente, si possa muovere in questa direzione. Del resto, se guardate Svezia a parte, che però se guardate il numero delle vittime, ha un numero di vittime in rapporto alla popolazione molto alto, Svezia a parte, un po' tutti i paesi si sono mossi in questa direzione. Fatta eccezione per la questione delle scuole, che gli altri paesi hanno lasciato aperte e noi abbiamo deciso di chiudere. E come sapete, di questo ci siamo occupati molto spesso. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, come sapete quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 2 dicembre, sono le 7:22 minuti e 45 secondi, e molti titoli dei giornali sono dedicati esattamente a questo, a come saranno le nostre vacanze di Natale, chi potrà partire, chi non potrà partire e quando. Natale blindato e messa alle 20, titola la stampa. Sicuramente Natale, ci fa il gioco di parole a venire, perché vuol dire Natale in sicurezza. Deroghe su ristoranti e nonni, titola il Messaggero. Qualsiasi cosa voglia dire, il Corriere della Sera ci informa che c'è tensione sui divieti. Il Manifesto gioca col nome del ministro della salute e il titolo è I viaggi della speranza, e l'immagine è quella di una serie di impianti sciistici e di una persona che li fotografa dall'alto. In realtà, più che impianti sciistici, è un plastico di impianti sciistici che viene fotografato da una persona. A Natale tutta l'Italia in giallo scuro. Qualsiasi cosa voglia dire, lo scrive il Quotidiano Nazionale, e questi sono un po' i titoli sul Natale. Un Natale senza spostarsi, permessi ai parenti e scontro, è il titolo di Repubblica, così chiudiamo tutto il giro. Il Giornale titola sul disastro tamponi e l'allarme contagi fantasma, irregolare un laboratorio su 4, reagenti scaduti, tecnici abusivi e prezzi degli esami gonfiati. Libero torna sulla patrimoniale, che fa rima con criminale, scrive La Verità, mascherine di Arcuri, indagano i PM. Occhio, perché adesso poi su questo ci arriviamo, perché è aperta un'inchiesta sull'approvvigionamento di mascherine. Il titolo del Fatto Quotidiano, Bertolaso e Gallera, nessuno li vuole più, 2 stelle cadenti, l'uno gira a titolo personale, l'altro viene scaricato anche da Forza Italia. Il Sole 24 Ore apre sui ristori, che arrivano a 40 miliardi, sono più della manovra, e a centro, o meglio, Italia centrale, Italia basso, c'è il Natale con il coprifuoco alle 22, quindi l'ipotesi che circola sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di taglio centrale Unicredit, con il titolo che ieri ha perso l'8%, la banca assicura su Monte dei Paschi no ad operazioni che ci danneggino. Arriveremo anche a questa questione di Unicredit, così come ce ne siamo occupati ieri. E però, come sempre, in questa parte iniziamo da qualcosa di diverso. E fatemi iniziare dalla giustizia, va? Perché è un po' che non ne parliamo. E il primo pezzo sul quale vi voglio portare è a pagina 19 del Quotidiano Nazionale e ci racconta di un'altra storia di giustizia che grida vendetta per la durata, e poi ovviamente anche per gli esiti. La questione riguarda Raffaele Argirò. Per il mondo intero era la guardia di Amanda Knox, con tanto di accuse solo a parole da parte dell'americana di molestie nel periodo del carcere. Poi l'imputazione infamante arrivò sul serio quasi 10 anni fa, quando un ex vigilessa di Milano, detenuta nel carcere di Capanne per omicidio, poi assolta, sostenne di essere stata violentata dietro le sbarre. Ora Argirò, 65 anni, ormai in pensione, è stato assolto per non aver commesso il fatto dal tribunale di Perugia. Tutto questo dopo 10 anni. L'avevamo detto all'epoca che la vittima era un'abile manipolatrice, ora è stata avallata dalle emergenze processuali, dicono gli avvocati Daniela Paccoi e Silvia Egidi, che hanno difeso strenuamente l'ex comandante della penitenziaria. La procura aveva chiesto la condanna a 3 anni e 8 mesi, ma i giudici hanno sposato la linea difensiva. Un processo arrivato a conclusione dopo estenuanti rinvii e il cambio di 4 collegi giudicanti. Ci sono voluti 10 anni per una persona marchiata con l'infamante accusa di essere un violentatore in carcere di una detenuta per uscirne assolto. Fosse anche stato condannato, 10 anni per un giudizio. Così come la vicenda che ci racconta il Messaggero a pagina 13 con Cristiana Mangani e che riguarda un celebre delitto italiano del quale tanto si parlò, 10 agosto 1991, il cosiddetto delitto dell'Olgiata, l'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre. Sono passati quanto? Volete far voi i conti? 29 anni. È arrivata una sentenza, l'ultimo oltraggio, colpo di spugna sugli errori. Non c'è colpa grave, dunque tutti assolti. A quasi 30 anni dall'omicidio di Alberica Filo della Torre, una sentenza della Corte di Appello di Roma, quindi siamo solo al secondo grado di giudizio, ribalta il verdetto di condanna per quei periti che, nella prima fase delle indagini, non individuarono elementi fondamentali per la soluzione del caso. Le macchie di sangue sul lenzuolo, tracce di DNA sull'orologio della vittima, ma è anche la traduzione di una intercettazione nella quale il domestico filippino della famiglia, che viveva in una grande villa alloggiata, tentava di piazzare i gioielli rubati nella camera da letto della nobildonna romana. Winston Manuel Reyes è poi finito in carcere, lo ricorderete, soltanto nel 2011 e quindi a 20 anni dall'omicidio, dopo averla fatta franca per diversi anni, e a breve potrebbe anche tornare in libertà. Dunque, che succede? I periti tutti assolti, a 30 anni di distanza, 30 anni di distanza. E del resto questo viene certificato anche dai numeri, e i numeri ce li racconta Francesco Specchia sul Libero a pagina 11 di oggi. È un rapporto sulla giustizia italiana che ci racconta che se il sistema giudiziario funzionasse davvero recupererebbe 35-40 miliardi di PIL e attirerebbe 170 miliardi di investitori esteri. L'Italia vanta il primato di avere la giustizia più lenta del continente. Prendete il settore penale. Qui nel 2018 il tempo medio per pronunciare una sentenza di primo grado è stato di 361 giorni, record negativo tra tutti i membri del Consiglio d'Europa, in cui la durata media è stata di 144, meno della metà. I dati trovano mesto riscontro anche nei successivi gradi di giudizio. In 4 processi penali d'appello su 10 il tempo medio per arrivare a giudizio è stato superiore a 730 giorni. Ancora più grave il settore civile e commerciale, che poi è quello che ci serve sveltire per attirare qua investitori, per far sì che i soldi circolano, dove per una sentenza in primo grado si devono attendere 527 giorni nel civile e commerciale, contro una media degli altri stati di 233 giorni. E il settore amministrativo settore amministrativo, 889 giorni nel settore amministrativo, in media. Rispetto ai 323, addirittura in Italia si impiegano in media più di 1200 giorni per una sentenza definitiva in terzo grado. Questi dati che ci fornisce Francesco Specchia su Libero. Una pausa. Figlia studia in Svezia, che gli studenti delle superiori sono in DAD, quindi anche la Svezia sta facendo la didattica a distanza. Ragazzi, riguardo al Covid, la dovete piantare di dire che tutti gli altri paesi non hanno chiuso le scuole. E infatti tutti gli altri paesi stanno molto peggio di noi, quindi piantatela per cortesia. Sono uno che rispetta le regole, ma poi c'è un governo di netti che tanto si atteggia adesso in questo momento a fare il censore o il primo della classe. E ricordiamoci che da maggio, aprile, insomma, quando c'è stato insomma l'abbassamento della prima fase, ha completamente dormito fino ad ottobre, non hanno fatto nulla, tant'è che ancora di nuovo passano i reclutamenti dei medici in pensione e anzi hanno stimolato il turismo, per cui adesso paghiamo prezzo per i pagordi di quest'estate, mettendo in cantiere il bonus turismo. Due spunti. Caro ascoltatore, quando parlo di tutti i paesi che hanno aperto le scuole, che hanno tenuto aperte le scuole, mi riferisco a paesi vicini a noi, come la Germania, dove il numero di vittime è incomparabilmente inferiore al nostro. Come la Spagna, la Francia, stessa cosa, sono numeri paragonabili e numeri che sono rimasti paragonabili nonostante le scuole le abbiano lasciate aperte. Poi magari si poteva fare una scelta di mezzo, si potevano aprire uno o due giorni a settimana di didattica in presenza e il resto in didattica a distanza. Magari un'operazione di questo genere, un'operazione di mezzo si sarebbe potuta fare. È quello che diciamo fin dall'inizio. A proposito di Svezia, ce ne parlava un ascoltatore. Apprendiamo che la Svezia in didattica a distanza e quindi tutta la famosa narrazione secondo la quale nella Svezia in Svezia non si sono prese misure di sorta sperando nell'immunità di gregge sono ovviamente false, e un ascoltatore mi fa notare, dice: guardi che in Svezia ci sono stati molti meno morti che in Italia, che in Spagna, in Francia. Sì, su questo ha perfettamente ragione, però ci sono stati molti più morti rispetto a paesi paragonabili, come la Norvegia. La confinante Norvegia ha avuto 61 morti ogni milione di abitanti contro la Norvegia che ne ha avuti 661 ogni milione di abitanti. Per darvi una misura, la Germania ne ha avuti 190 ogni milione di abitanti, più o meno. In Italia siamo intorno ai 920 ogni milione di abitanti. Un po' troppi numeri forse, però in radio è sempre difficile darli perché poi non so quanto si colgano e quanto passino, però sappiate che in Svezia ci sono stati 10 volte più morti che in Norvegia, così la semplifichiamo all'estremo. Fatemi, prima di tornare sulle questioni Covid, fatemi andare su una storia della quale ci siamo già occupati, ed è la vicenda, la ricorderete, dell'insegnante di un asilo di un paese del Torinese che era stata licenziata dopo un caso di revenge porn. Cosa era successo? Aveva mandato delle sue foto intime alla persona che frequentava in quel momento, questa persona aveva girato queste foto agli amici del calcetto, dopodiché uno degli amici del calcetto aveva una figlia, un figlio in quest'asilo nel quale la maestra insegnava, ha fatto vedere le foto alla moglie, la moglie l'ha portata all'attenzione della preside, la preside di fatto l'ha costretta a dimettersi. È una vicenda allucinante perché di fatto ha finito per pagare la persona che in tutto questo non c'entrava nulla. E ieri è iniziato il processo e Il processo ovviamente non nei suoi confronti, è il processo nei confronti delle persone che l'hanno umiliata in questo modo. E La Stampa con Irene Famala intervista: mi hanno distrutto la vita, alle altre dico denunciate. E racconta questo per darvi la misura dell'effetto che può fare una questione di questo genere. La mia vita non è più come prima, non lavoro e non sono più la stessa persona, mi curavo molto, mi piaceva uscire con gli amici, ora sono chiusa in me stessa, non mi fido degli altri. Prima un vestito più provocante l'avrei indossato tranquillamente, per me e per piacere a me stessa, adesso mi sento giudicata, penso che la gente mi osservi con malizia, ho avuto bisogno di uno psicologo per affrontare tutto questo e continuo ad averne bisogno, mi sto riprendendo la vita, ma il percorso sarà lungo. Testimoniare al processo è stata una liberazione, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. E racconta dettagli ulteriori di quello che è successo, la convocazione in una riunione nella quale viene convocata dalla preside, dalla dirigente scolastica, e viene messa in questa riunione con tutti gli altri suoi colleghi, i quali, invece di solidarizzare per questa situazione assurda, cosa fanno? L'attaccano, la aggrediscono. Mi hanno detto di tutto e me l'hanno detto in faccia, ho abbassato la testa, nessuno ha preso le mie difese, mi sono sentita umiliata. Entra nel dettaglio Elena Stancanelli nel suo commento proprio sulla stampa e racconta proprio questo. La preside ha convocato un improvvisato tribunale dell'Inquisizione, mettendola sul rogo mentre gli altri insegnanti le ballavano intorno, aggredendola con aggettivi che potete immaginare, insultandola, mostrando un totale disprezzo della sua intimità. La maestra però ha registrato quegli interventi e li ha fatti ascoltare nell'aula di tribunale alla quale si è rivolta per ottenere giustizia. Dagli audio risulta che c'è addirittura qualcuno che, al colmo dell'indignazione morale, l'ha addirittura minacciata dicendo che dopo quanto aveva fatto non avrebbe trovato uno straccio di lavoro da nessuna altra parte. Ma fatto cosa? Si chiede Elena Stancanelli. Sesso? Video erotici? Quale sarebbe il reato? Qual è la ricaduta sui ragazzi e le ragazze alle quali insegna? Fatto sta che racconta lei con queste aperte virgolette referenze, chiuse virgolette, in questo momento lavoro non lo riesce a trovare. E visto che parliamo di donne, ieri c'è stata in una visita in un quartiere a periferia di Roma, a Centocelle, da parte di Matteo Salvini, c'è stata questa frase che sta facendo un po' discutere a proposito di Virginia Raggi. Noi faremo bonifica all'arco ecologico, sono 4 anni e mezzo. Ma questa l'avete sentita, no? Ma questa è scema proprio, poverina, dice Matteo Salvini. Ne prende spunto la nostra Maria Latella per firmare un commento sul Messaggero di oggi. A proposito dell'uso di questa espressione, e dice... è che innanzitutto è una triste abitudine maschile dare della cretina a un'avversaria. Succede in politica e succede nelle aziende. Di volta in volta la presunta cretina può essere il capo del maschio che così reagisce dopo una critica. Può essere una collega, un'avversaria ideologica o semplicemente una concorrente sul fronte, sul posto di lavoro. E dice Maria Latella che quando Salvini ha detto questa frase, dice... Ma come mai nessuna è intervenuta in difesa di Virginia Raggi? Forse tutte al governo e in Parlamento sulla Raggi condividono il giudizio di Salvini, oppure pensano che si debba intervenire solo quando l'insulto è a sfondo sessuale, mentre se ti danno della cretina l'insulto è gender free, giacché anche un maschio può essere definito cretino. E qui però si scade nell'ipocrisia, perché tutti sanno che non è vero. Dare della cretina a un'avversaria politica, a una competitor professionale, è molto più insidioso, dal momento che la presunta leggerezza e incompetenza è l'arma con la quale in questi decenni molti uomini hanno tenuto lontane le donne dai posti di responsabilità e di potere. C'è un'altra ipotesi, la lascio per ultima perché è anche la più dolorosa. Le donne fanno fatica a solidarizzare con un'altra donna se non fa parte del loro clan o se non è vista come parte di un clan potente col quale è meglio avere buoni rapporti. Il traffico. Occhio, occhio, perché questa questa inchiesta promette di fare strada, vedremo come andranno le cose, di fare strada quantomeno mediatica, poi vedremo se dal punto di vista penale emergerà effettivamente qualcosa. Però è un'inchiesta aperta, è quella della quale ci racconta La Verità a pagina 7 con Giacomo Amadori, ed è un'inchiesta aperta dalla Procura di Roma guidata da Giuseppe Prestipino in seguito a una segnalazione di operazione sospetta dell'antiriciclaggio della Banca d'Italia. E cosa riguarda? Riguarda l'acquisto di mascherine da parte della struttura guidata da Domenico Arcuri. Un acquisto di mascherine, la cosa sulla quale si indaga sono le commissioni ricevute dagli intermediari, la Sansky SRL dell'ingegnere aerospaziale Andrea Vincenzo Tommasi e dal suo intermediario Mario Benotti, giornalista Rai, che per aver messo in contatto Tommasi con Arcuri avrebbe intascato ben 12 milioni di euro. E il procuratore Prestipino non si sbottona, ha ammesso l'esistenza del fascicolo, ci stiamo lavorando, non posso dire altro perché altrimenti violerei il segreto. Già ci siamo lamentati perché hanno fatto uscire sui media questa storia della segnalazione all'antiriciclaggio, dell'antiriciclaggio. Posso dire che stiamo lavorando da tempo su quella segnalazione. È un'inchiesta importante? Gli chiede il giornalista. Direi di sì, ammette il procuratore. I magistrati e la Guardia di Finanza stanno lavorando, dovete avere solo un po' di pazienza. Occhio, perché questo è un fronte che potrebbe essere interessante nei prossimi giorni, almeno quanto quello. Oggi ne trovate un po' poca traccia sui giornali, ma ieri ne abbiamo parlato diffusamente in rassegna stampa e ben lo sapete, almeno quanto quel pezzo di inchiesta della Procura di Bergamo sul piano pandemico non aggiornato dal 2006 e che coinvolge il direttore aggiunto dell'OMS Ranieri Guerra, il quale tra l'altro oggi si difende e annuncia querele. Anche là vedremo come andranno le cose. Altra inchiesta che riguarda la pandemia è quella, meglio, più che inchiesta, sono questa serie di perquisizioni effettuate dai nuclei antisofisticazione. Ieri ne dà ampia notizia il giornale, l'avete sentita anche in GR24 la vicenda naturalmente. Il giornale decide addirittura di aprirci e siamo poi a pagina 7 con il pezzo di Maria Sorbi che ci racconta di questo. Reagenti scaduti, materiali per i tamponi mal conservati e tecnici di laboratorio abusivi. Le irregolarità riscontrate dai NAS nei centri di analisi anti-Covid sono parecchie, ma ce n'è una che fa male più delle altre. Anche nel momento nel quale un paziente risultava positivo alle analisi, il suo nome non veniva nemmeno comunicato all'azienda territoriale sanitaria e non finiva nei bollettini ufficiali sull'andamento della pandemia. Quella mancata comunicazione affidava al buonsenso del singolo cittadino la scelta di isolarsi in quarantena fiduciaria oppure no. E speriamo che effettivamente l'abbiano fatto. In 67 centri, il 23,5% di quelli controllati si sono riscontrate irregolarità, 94 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 145.000 euro di sanzioni pecuniarie. Tra questi, mancato possesso dell'autorizzazione a fare tamponi svolti abusivamente in ambienti non idonei, mancata predisposizione e attuazione di piani e protocolli preventivi all'interno delle cliniche, come la carenza di procedure gestionali, eccetera, eccetera. Questa è l'inchiesta che accerta 153 kit di diagnosi e dispositivi medici irregolarmente detenuti per la vendita al dettaglio o l'effettuazione di analisi anche nelle profumerie. La questione, ce ne parlava prima un ascoltatore, la questione influenza, la questione vaccino anti-influenzale. Poi vi ricordo che alle 8.35 parleremo invece di vaccino anti-Covid e se sia necessario renderlo obbligatorio oppure no. Ieri c'è stata una parziale apertura dalla Consulta Nazionale per la Bioetica, la quale ha detto che quantomeno per alcuni settori della società, come quello sanitario, potrebbe essere reso obbligatorio. E ne parleremo, le vostre opinioni sono benvenute al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Michele Bocci sulla Repubblica, pagina 4, riassume un po' come stanno le cose. Vi do qualche numero, anche oggi è giornata così, è giornata di numeri. Sono 890.000 le dosi che mancano alla regione Puglia, che ne aveva ordinate 2 milioni, quindi la metà. Sanofi ne doveva consegnare 1,5 milioni, ma si è fermata molto sotto. Ora la campagna vaccinale è a rischio. Stesso ammanco, 400.000 dosi mancano alla Lombardia e 400.000 al Piemonte. E l'assessore Gallera, assessore lombardo Gallera, annuncia: faremo causa alle case farmaceutiche che non ce l'hanno consegnati in tempo. C'è un fronte politico nella giornata di oggi, come ben sapete, quello che riguarda Silvio Berlusconi, che ieri, in una strana giravolta da mal di testa, come la definisce Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, dice no alla riforma del Fondo Salva Stati, ma si dice a favore della richiesta dei 37 miliardi che il suo partito voterà, a favore del quale è il suo partito. Cioè, quindi, è contro la riforma del Salva Stati, ma a favore del fatto che l'Italia utilizzi il MES. E si sofferma Lina Palmerini a pagina 9 del Sole 24 Ore anche su questa famosa ipotesi Draghi che continua a circolare e nota giustamente: lo scenario appare fantasioso visto che l'ex presidente BCE approderebbe a Palazzo Chigi sull'onda di una vittoria sovranista ed euroscettica nel caso che il 9 dicembre il governo, appunto la maggioranza, vada sotto sul tema di appunto sulla questione del MES, del Fondo Salva Stati. Visto che siamo sul Sole 24 Ore, pagina 3 è quella della quale avete bisogno se volete capire qualcosa della vicenda Unicredit, Unicredit che crolla appunto e chiude in parte a Monte dei Paschi, come dice Luca Davi, e dice no ad operazioni penalizzanti. Della vicenda ci siamo occupati ampiamente ieri in rassegna stampa e non solo. I timori sono quelli di un blitz sul Monte dei Paschi di Siena che peggiorerebbe i conti del gruppo e quindi un meno 8% dopo l'addio dell'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier, che se ne andrà in aprile. Alessandro Graziani firma un commento a pagina 3 del Sole 24 Ore interessante su questo fronte, perché sgombra un po' il campo da quello che definisce lo storytelling della star dei mercati cacciata dalla politica italiana, forse addirittura dal governo, che senza saperlo si scopre potentissimo, ironizza Graziani, allontanato perché francese e altre illazioni. Qualche giorno di tempo e poi la claque finirà e ci si focalizzerà sulla realtà che in parte nell'annunciare la non ricandidatura ha spiegato lo stesso Mustier. Da mesi c'erano divergenze con il consiglio d'amministrazione sulla strategia e sull'implementazione del piano presentato lo scorso dicembre, dice Graziani, sgombrando appunto un po' il campo da quello che definisce lo storytelling sull'intervento della politica. GR24, ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi appunto parliamo di vaccino.